Letture di Radio 24. Siamo tutti eroi nelle nostre storie e questo è particolarmente evidente nelle storie autobiografiche. I narratori cercano, consciamente o meno, di apparire più brillanti, più spiritosi, più affascinanti di quanto non siano nella realtà. Come scriveva Stefano Priarone qualche settimana fa sul Foglio, recensendo la nuova graphic novel di Chester Brown. Il fumettista canadese rappresenta una delle poche eccezioni, dato che nelle sue storie non è certo un eroe e neppure anti-eroe, è un uomo senza qualità, a parte la spietata sincerità, continua Priarone. Sono pochi i fumettisti che hanno il coraggio di mettersi a nudo nelle storie autobiografiche. L'altra eccezione è Joe Matt, che nelle sue storie racconta senza pudore i suoi difficili rapporti con l'altro sesso e le sue ossessioni per i film porno e per l'autoerotismo. Anche nei fumetti di Chester Brown affiorano di frequente le sue ossessioni sessuali. Scrive Priarone: se nel recente Io le pago aveva raccontato senza inibizioni dei suoi rapporti con le prostitute, con tanto di diario e nomi delle escort frequentate, il Playboy, che risale ai primi anni 90, ma era finora inedito in Italia, racconta della scoperta della celebre rivista di Hugh Hefner. Siamo nel 1975. Brown ha 15 anni, esce dalla chiesa, va dall'altra parte del sobborgo di Montreal dove abita, compra la rivista e si eccita vedendo la playmate Marilyn Lange, ci informa. Però nasconde il numero in un prato. E così fa con i successivi, cerca di comprarli dove non lo conoscono, strappa le pagine che lo interessano, nasconde o brucia la rivista, che guarda sempre con un forte senso di colpa, spesso pre-politicamente corretto. Si sente razzista se la playmate nera non lo eccita. Anche senza pensare all'attuale enorme offerta pornografica su internet, è curioso per un lettore italiano cresciuto con modelle seminude, persino sulle cover dei News Magazine, osservare il grande imbarazzo di Brown per una rivista dove ci sono stati articoli notevolissimi, che ha pubblicato racconti di autori come John Updike o García Márquez, e che all'epoca presenta Little Annie Fanny, fumetto di due maestri quali Harvey Kurtzman e Will Elder. Brown arriva a rivelarci persino la sua tecnica di masturbazione e racconta di quando, anni dopo, fidanzato con una ragazza che non gli piace, deve fantasticare sulle sue playmate preferite per mantenere l'erezione quando fa l'amore con lei, tanto che è contento quando viene lasciato. La sincerità di Brown è tanto affascinante quanto disarmante. Nel finale del libro ci informa di avere, nascoste in camera sua, una collezione di foto spessa circa 10 centimetri. Nelle note, aggiornate a 3 anni fa, ci dice il numero di DVD porno che possiede, ma forse essere così docilmente e impudicamente sincero è il modo per essere l'eroe delle sue storie. E quella che avete ascoltato era la recensione della graphic novel di Chester Brown, Il Playboy, scritta da Stefano Priarone e pubblicata sul Foglio del 30 giugno. Che cos'è l'Olimpo? Perché è importante fare sport? Come ci si prepara a una Olimpiade? Le domande dei più piccoli, le risposte dei più grandi. Sono Federico Taddia e vi aspetto a terra in vista le Olimpiadi spiegate a mio figlio, insieme al filosofo della scienza, Telmo Pievani. Il mito, la vittoria, il limite, la corsa, ogni puntata una parola per raccontare lo spirito olimpico. E non solo, tante storie e curiosità e poi le nostre rubriche come Non battere la fiaccola, le animaliedi e la scienza nello sport. Terra in vista ogni domenica alle 9. Perché l'importante non è vincere, è ascoltare. Letture di Radio 24. Secondo i dati che emergono dalla 14ª edizione dell'osservatorio Non Food di GS1 Italy, l'unico ente italiano autorizzato al rilascio dei codici a barre GS1, standard mondiali del commercio, i consumi non alimentari calcolati dall'Istat hanno registrato lo scorso anno una crescita in valore assoluto superiore rispetto ai beni grocery. Ma il dato più interessante che emerge dall'osservatorio è che si registra un cambiamento anche nei modi di acquisto, con i negozi fisici che recuperano terreno rispetto alle vendite online. Sembrava, per esempio, che il consumatore fosse entrato nell'era digitale a piedi uniti e che passasse il suo tempo dedicato all'acquisto tra raccolta bulimica di informazioni, scambio di notizie sui social vari, verifica dei prezzi sullo smartphone davanti alla vetrina del prodotto agognato, fotografie e condivisione del nuovo abito provato nel camerino virtuale, ordine online e ritiro nel punto vendita o viceversa, in una customer journey che attraversa decine di touch point. Tutto questo c'è, esiste e con ogni probabilità diventerà sempre più rilevante, almeno per una buona parte della popolazione. Ma alcuni significativi cambiamenti si notano nella ricerca condotta da GfK per l'osservatorio Non Food, realizzata intervistando 750 persone, rappresentanti degli italiani digitalizzati, riguardo al loro comportamento nell'acquisto effettuato nel canale fisico o in quello digitale, in almeno una categoria tra elettronica, elettrodomestici, libri e videogiochi. La prima sorpresa, segnala Edmondo Lucchi, responsabile del Dipartimento New Media GfK, è che per le tre aree merceologiche considerate, il punto vendita fisico è il touch point principale, sia per l'acquisto, sia per la ricerca di informazioni. Seguono poi, nelle fonti informative utilizzate, la raccolta di informazioni presso amici o parenti, e il contatto con il prodotto al di fuori del punto vendita. Nel punto vendita fisico conta molto sia l'esposizione del prodotto sia il contributo del personale di vendita, ma mentre il canale fisico si identifica con il punto vendita, nel digitale il sito o l'app in cui si acquista ha un ruolo orientativo molto più aperto alle entità esterne, motori di ricerca, recensioni, commenti online, comparatori di prezzo e altro. Nella scelta del punto vendita, la convenienza strutturale o episodica e la relazione sedimentata, fiducia o abitudine, costituiscono la motivazione principale, mentre nella scelta del canale è diffusa una prevalenza di quello fisico, al quale si attribuiscono vantaggi in termini di servizio e di supporto pre e post vendita. Al canale digitale si riconoscono invece maggiore concorrenza di prezzo, rapidità e risparmio di tempo, praticità e ampiezza di scelta. Come a dire che il canale digitale vince per efficienza, economica, temporale, logistica, e quello fisico vince per efficacia, chiosa Lucchi. È però significativo il fatto che nella ricerca di informazioni e nell'acquisto non vi sia esclusività dell'uno sull'altro. Vi è anzi una certa complementarietà, cosa che depone a favore di una loro convivenza e non di uno scontro diretto per il futuro. Tanto più che dalla ricerca dell'osservatorio non sembra esserci una deriva generazionale forte, come si potrebbe pensare. Dopo 20 anni di digitalizzazione di massa e a fronte dei risultati raccolti in questa ricerca, appare fondata l'ipotesi che il punto vendita fisico possiede una prestazionalità specifica, magari poco verbalizzabile, ma sostanziale e antropologicamente fondata, quindi destinata a perdurare. Se si trova in un punto vendita fisico il prodotto che soddisfa le esigenze di partenza, si parte dal presupposto che i prezzi non siano troppo differenti da altri punti vendita e se c'è un'offerta speciale, esemplifica Lucchi, non si hanno ragioni per continuare nella ricerca e ci si ferma lì. In sostanza, raggiunto un certo livello di saturazione informativa, si delega a chi è noto e in grado di sostenerci, cioè alla marca, al prodotto, al prezzo e all'insegna. E quelli che avete ascoltato erano alcuni passaggi dell'articolo di Fabrizio Gomorasca Acquisti, la rivincita dei negozi fisici, pubblicato il 28 giugno sul sito L'Inchiesta. Gentle with yourself. You are a child of the universe, no less than the trees and stars. You have a right to be here, and whether or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding. Malu, Amae, Avumbuk. Non sono parole inventate per riempire le caselle di un cruciverba delle quali non si riesce proprio a trovare la soluzione, ma alcuni dei nomi che la psicologa Tiffany Watt Smith, ricercatrice presso il Centro per la Storia delle Emozioni Umane all'Università Queen Mary di Londra, ha trovato per definire alcune delle emozioni che tutti proviamo, ma delle quali molti di noi non conoscono nemmeno l'esistenza. La Watt Smith ha appena pubblicato per l'editore Little Brown & Company il volume The Book of Human Emotion, un compendio di 154 emozioni che include qualche termine già decisamente noto, come anxiety, ansia e claustrofobia, claustrofobia, insieme a molte parole più sconosciute o prese in prestito da lingue straniere. È un'idea diffusa che quando si dà un nome a un sentimento, questo può rendere quella sensazione meno travolgente, ha detto la studiosa intervistata dal blog Science of Us del magazine New York. Tutta quella roba che ti frastorna e che ti fa stare male può diventare un poco più gestibile quando gli dai un nome, ha spiegato. Ecco alcuni dei termini inclusi nel suo libro e riportati da Science of Us. Amae è una parola giapponese che significa appoggiarsi sulla buona fede di un'altra persona. Nelle parole dello psicanalista nipponico Takeo Doi, è l'emozione di chi dà per scontato l'amore del prossimo. Quel non mettere in dubbio i sentimenti altrui che in alcuni casi può far maturare un rapporto, ma che in altri può spingere a comportamenti egoisti. L'appel du vide, ovvero il richiamo del vuoto, è un'espressione francese che indica quella strana sensazione di chi avverte, per esempio, il desiderio di saltare sui binari mentre sta aspettando la metropolitana, senza per questo desiderare di morire o tantomeno suicidarsi. È una cosa che capita ad alcune persone, peraltro studiate in questi anni, e che non ha nulla a che vedere con la depressione, ma che somiglia piuttosto a una specie di vertigine. Ne aveva scritto anche Jean-Paul Sartre, definendola una sensazione snervante di non potersi fidare del proprio istinto. Avumbuk è il termine con cui i nativi della Papuasia descrivevano quel senso di vuoto che si prova talvolta dopo una cena o una festa, quando gli ospiti se ne sono andati. Non c'è bisogno di essere un nativo della Papuasia per avere familiarità con questa sensazione. Dépaysement. In inglese non esiste un equivalente dell'italiano spaesamento. L'autrice del saggio prova a spiegare questa sensazione ricorrendo al termine francese. Kaukokaipu è una parola finlandese che indica una nostalgia per un posto dove in realtà non si è mai stati. Malu è un termine indonesiano che indica la sensazione improvvisa di sentirsi inferiore oppure a disagio quando ci si trova davanti a persone di uno stato sociale più elevato. Pronoia è invece un neologismo coniato da alcuni psicologi in tempi recenti. Come suggerisce il nome, è il contrario della paranoia. Anziché persone erroneamente convinte che tutti stiano tramando contro di loro, c'è anche chi è convinto, altrettanto erroneamente, che tutti vogliano aiutarlo. E quello che avete ascoltato era l'articolo Dare un nome alle emozioni che non conosciamo, pubblicato il 16 giugno sul sito Rivista Studio. Per un orchestrale non è sempre facile arrivare al termine del concerto con i vestiti in condizioni impeccabili, come vorrebbe parte del pubblico. Ma ora c'è un'azienda inglese che sta progettando degli abiti pensati appositamente per i musicisti. Quello che i musicisti di un'orchestra indossano sul palco tende a dividere il pubblico. Alcuni vorrebbero farvi credere che Beethoven suona come Beethoven solo se i musicisti sono in giacca e cravatta. Altri invece vorrebbero che i musicisti rompessero gli schemi e si vestissero in modo più informale, e ad altri ancora non importa né una cosa né l'altra. Ma chi pensa invece ai musicisti? C'è qualcuno a cui importa di come si sentano? Parrebbe di sì, dato che c'è un'azienda che sta studiando dei vestiti realizzati appositamente per i musicisti. La Black Dress Code, questo è il nome dell'azienda, sta cercando di realizzare dei vestiti che siano comodi da portare e che al tempo stesso mantengano la piega e si possano lavare in lavatrice. Pare stiano anche cercando di realizzare dei vestiti che garantiscano una perfetta esecuzione. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Meglio cucire che curare, dal numero di luglio del mensile BBC Music Magazine.